fondato questo Media Center in collaborazione con vari collettivi sempre autogestiti tedeschi, che hanno coperto perfettamente tutto il vertice, e io una cosa del genere insomma non la vedevo da veramente molti anni. Non vedevo anche da molti anni una partecipazione così massiccia, incassata a un anti-summit, quindi insomma diciamo che siamo rimasti molto soddisfatti. Vivendo in Germania un po' noi ce l'aspettavamo, nel senso che si erano fatti molte assemblee preparatorie, non solo ad Amburgo, si sapeva già i blocchi e le aree che avrebbero partecipato, si era fatta anche una campagna un pochino più internazionale, almeno a livello europeo, in Italia, Francia, in Grecia anche. Nei paesi scandinavi, e infatti c'è stata partecipazione anche internazionale, che purtroppo però ha portato degli arresti come sempre. Ma secondo alcuni media qui sembrerebbe che ci sia stata proprio una caccia esplicita nei confronti dei manifestanti che venivano dall'estero. Tu mi puoi confermare questa notizia? Assolutamente, nel senso che l'ultimo giorno in particolare, dopo la manifestazione grossa quella intitolata Senza Confini, solidarietà al posto del G20, hanno iniziato a girare queste voci, ci fermava chiunque sentisse parlare italiano, ci fermava dicendo: ragazzi, state attenti perché cercano italiani, francesi e svizzeri, un po' come le barzellette, no? L'italiano, il francese e lo svizzero che vengono fermati dalla polizia di Amburgo. E soprattutto anche, per esempio, noi con la residenza tedesca ci hanno detto: guardate, anche voi fermano, perché hanno fermato chiunque. Io ti interrompo un attimo, forse varrebbe la pena di raccontare a chi ci ascolta le giornate dall'inizio. Non ti sento più. Dicevo, forse varrebbe la pena fare una cronaca completa, cominciare dall'inizio e arrivare alla conclusione, diciamo, cominciare a raccontare un po' le varie giornate, che cosa è accaduto. Qui a Blackout avevamo fatto la cronaca del primo sgombero del campeggio e poi da lì a discendere. Sì, allora, quindi comincio da dopo lo sgombero. E come vuoi tu. Sì, ti sento malissimo. Come preferisci, insomma, io provo ad alzare ancora, ma qui ci sono problemi. Non lo so, ogni tanto va via la tua voce. Allora, come sapete tutti, erano stati dati dei permessi per il campeggio, quella anticapitalista, ma la questura se n'è fregata, perché comunque il questore è sempre stato per la linea dura riguardo a questa manifestazione, e quindi hanno tranquillamente sgomberato la sede che doveva essere del campeggio anticapitalista. E questo comunque ha significato anche non poter fare le workshop, le iniziative, e quindi anche è stato un disagio, non solo nel dormire, nel mangiare, ma anche nel potersi confrontare e creare network tra di noi. Comunque da lì c'è stato il rilancio, a cui io non davo molto, molto seguito, ma in realtà invece poi la gente è riuscita a farlo. C'è stato questo rilancio a occupare quanti più parchetti possibile ad Amburgo. E lì è intervenuta, è successa questa cosa che a me gli italiani sembra molto strana, è intervenuto un prete di Johannes Kirche, che era poi il campeggio in cui sono stata anche io, che ha dato piena disponibilità del terreno intorno alla sua chiesa, che è il terreno quindi privato della chiesa, non pubblico, e da lì ha aperto quindi anche ad altre terreni della chiesa. Questa chiesa ovviamente è chiesa protestante, quindi non evangelica protestante, quindi non si rifà al Papa. Noi ovviamente non siamo cattolici, non siamo protestanti, non siamo nulla, però questa cosa ci ha suonato molto interessante, perché comunque chiaramente loro l'hanno fatto per motivi umanitari, ma a noi comunque il risultato è stato utile, no? Partendo da lì, quindi noi siamo riusciti a prenderci questi spazi, e ovviamente la polizia stava davanti ai campi, si creava questa disagio psicologico, con elicotteri, eccetera, ma siamo riusciti a non farsi, sbattere fuori. La prima giornata grossa è stata quella del mercoledì sera. Io sono arrivata mercoledì sera ed era stata quella della street rave, diciamo, loro la chiamano manifestazione danzante. Partecipata a 20.000 persone e è riuscita a sfilare tranquillamente. Il giovedì poi c'è stato il famoso Welcome to Hell. Questa manifestazione non aveva permesso di partire con la testa del corteo fatta dal blocco nero con tutte, diciamo, le facce coperte, perché in Germania c'è tolleranza zero sulle facce coperte, sempre, non ad Amburgo, al G20, sempre. E quindi c'è stato un momento di contrattazione con gli organizzatori sul numero di persone che poteva avere il volto coperto, cioè qua siamo al ridicolo, purtroppo i tedeschi non ce la fanno. E non si è arrivato a un accordo, evidentemente, sta di fatto che a un certo punto la polizia ha cerchiato il blocco nero che stava in testa e ha creato una situazione di panico con gente che scappava, si buttava al muretto, perché comunque quella manifestazione è stata sul lungo fiume, no? Uno dei porti principali di Amburgo, e quindi tutti quanti poi hanno ripiegato verso l'acqua, ci sono state appunto cariche con idranti, strade peroncino, eccetera eccetera, e inizialmente quindi si era un po' dispersa questa manifestazione. È stato in quel momento in cui ci sono stati i feriti più gravi, di cui un ragazzo ho visto portare via anche io in barella, abbastanza grave, penso che ancora, ieri mi dicevano che era ancora in coma, però non so confermare questa notizia. Sì, i vari media ne parlano come in cattive condizioni, decisamente. Esatto. E si è riusciti in qualche modo, dopo un po', con vari lanci di bottiglie, sacchi, a riprendere la strada. Calcola che questi idranti hanno preso veramente anche gente che stava sul ponte, sui tetti, a rischio anche, hanno anche caricato, mi sembra di ricordare, le persone su delle terrazze in alto, quindi si è rischiato non poco. Eravamo in Italia, c'era la carneficina in quella situazione lì. Per fortuna i tedeschi fanno un passo indietro a un certo punto, però comunque si è rischiato un bel po'. Io mi aspettavo che qualcuno cadesse dalla scorta, se non poi. Evidentemente si sono resi conto che la gente comunque voleva sfilare in qualche modo, e quindi si è riusciti a continuare di nuovo la contrattazione e a fare questa un'altra manifestazione danzante, che è durata ben poco. Cioè, abbiamo passato il porto, una volta ripiegati su Stampoli sono cominciate cariche, scontri, insomma, barricate, principalmente intorno alla zona del, insomma, Stampoli e alla zona del Roteflora, che è appena a fianco a Stampoli. Quindi sostanzialmente la polizia ha permesso quel tratto di corteo che avrebbe riportato i manifestanti nelle zone proprie, mettiamola così. Sì, è stato sempre quella un po' la mossa, no? Infatti gli scontri ci sono stati principalmente lì, in questi giorni. Avrei voluto vedere più scontri nelle zone ricche, sarebbe stato più interessante a livello politico, però insomma noi ce lo rivendichiamo sempre, no? La conquista della piazza e della strada. Altona è un po' di più la zona, una zona un pochino più fighetta, ecco, rispetto a Stampoli. Comunque sarebbe, diciamo che poi i blocchi che ci sono stati nella zona degli hotel, io li ho visti a livello politico ancora più interessanti. Stiamo parlando del venerdì a sto punto? Stiamo parlando del giorno dopo. Allora no, è perché sai, tu sai di cosa stai parlando, ma chi ci ascolta no. E quindi bisogna avere un minimo di scansione temporale. Quindi passata questa giornata del del giovedì, con gli scontri che si concludono nella zona del Sempoli e nella zona del Roteflora. Il venerdì era il giorno dei blocchi, qui alcuni organi di stampa li hanno definiti blocchi multicolori, c'era questa idea di colorare la zona rossa con tanti blocchi di colori diversi. Che cosa significa questo? Allora, in tanti colori in Germania vengono usati spessissimo, è un po' la teoria delle cinque dita, no? Cioè prendere con differenti anche pratiche di piazza e percorsi, prendere determinati obiettivi seguendo appunto vie diverse, ritrovandosi, rincontrandosi, si è fatto anche a Kassel, si è fatto anche a Rostock. È una tecnica che usano molti tedeschi, che riescono a essere organizzati tra di loro e insomma a seguire il loro gruppo viola, il loro gruppo rosso, blu, eccetera. Ma è una corrispondono ai colori anche tattiche di piazza diverse, come avvenne a Praga una quindicina d'anni fa? Sì, di solito sì, però sai, erano talmente variegate internazionale questa manifestazione poi diventata, che a un certo punto della giornata non si è più capito tantissimo. I colori e le pratiche di piazza le sapeva chi aveva fatto le assemblee sui blocchi, eccetera, in Germania. Poi ovviamente chi è arrivato da fuori magari ha portato la sua pratica in un colore che magari non gli apparteneva, ma mai il casino era veramente grande, che boh, non si è capito poi, secondo me, tantissimo questa cosa. In realtà la giornata è iniziata non solo con i blocchi comunque, ma è iniziata anche con delle azioni dislocate, sia nella notte prima, sia nella mattina, alle 7 di mattina è cominciato tutto, delle azioni contro Ikea, piuttosto che catene di ristoranti molto famose, sono i simboli del capitale, del capitalismo, macchine di lusso bruciate, tipo è bruciata una concessionaria della Porsche nella notte facendo 1 milione di euro di danni. Insomma, delle azioni dirette ben precise. Quindi oltre ai blocchi c'è stato anche questo. I blocchi ovviamente sono stati più fotografati e più seguiti dalla stampa, quindi magari si parla un pochino più di quello, ma ecco, bruciava tutta la città quel giorno, soprattutto la zona di Altona. Quello che ho visto è stato, sono stati principalmente appunto nella mattinata fino più o meno a dopo pranzo, ora di pranzo, i blocchi intorno alle zone degli hotel dei partecipanti al summit, che devo dire sono stati interessanti, perché inizialmente ho visto sit-in, blocchi della strada, così un pochino più pacifici, poi dopo un po' c'è stato un po' il delirio e si è cominciato a inseguire auto, prenderle a calci, e quindi insomma fisicamente i manifestanti si sono messi in mezzo tra il summit e i suoi delegati, e hanno tardato, come avete potuto vedere, l'inizio del summit. Ora mi sembra che la moglie di Trump... Sì, questa è la notizia che hanno riportato un po' tutti, ma evidentemente compreremo dei cappellini, insomma, faremo bolletta per questo, poverina. Il venerdì è stato intenso, quindi sarà un po' un racconto lungo. Dopo pranzo, si è riusciti a mangiare, per fortuna, dopo pranzo... era stata indetta la manifestazione con partenza di fronte allo stadio, e da lì è partita la manifestazione, diciamo, seguendo un percorso diverso, e che è riuscita ad arrivare al porto. Al porto ha bloccato il porto per un po', un'oretta mi sembra di ricordare, e, con azioni diversive di alcune parti del blocco nero per fare un po' deviare una parte della polizia, e anche lì ci sono state cariche di idranti, eccetera, per strai, non ricordo particolarmente feriti a quella manifestazione. Comunque insomma, si è riuscito ad arrivare al porto, che era un po' uno degli obiettivi, no, dell'anti-summit, e a bloccarlo per un po'. Contando la quantità di polizia che c'era, io direi che il risultato che abbiamo ottenuto è abbastanza soddisfacente. Da lì poi si è ripiegato di nuovo verso le cucine, si è mangiato con calma, e la sera è cominciato un po' il delirio intorno alla zona sempre del Roteflora, quindi una parte di quartiere direttamente a fianco a Campoli. Roteflora, immagino che tutti sappiano cos'è, no? Beh, meglio che lo dici, guarda, meglio che lo dici. È uno spazio autogestito che è stato sotto sgombero l'anno scorso, quindi molte persone da tutta la Germania sono andate a difendere, no, lo spazio, e lo spazio è molto grosso. Si immagina che intorno a quello spazio ci sia comunque una componente militante di supporto di almeno un migliaio di persone. Infatti l'antisgombero era, cioè, gli scontri antisgombero sono stati anche abbastanza pesanti, e sono sempre riusciti a difendere molto bene lo spazio. La maggior parte delle barricate che avete visto in foto sono state intorno a quella zona, no? Ma lì è stata la polizia ad intervenire nella serata del venerdì, o c'erano delle azioni anche lì? Questo non l'ho capito. Non ho sentito delle azioni. Dicevo, il venerdì sera tu mi dici che ci sono stati numerosi scontri intorno alla zona del Roteflora, e secondo i media era la polizia ad intervenire in zona. Sì, io le forze speciali le ho sentite nominare il sabato, non il venerdì, quindi anche quei famosi mitra che si sono visti in piazza, l'utilizzo di lacrimogeni, perché normalmente i lacrimogeni sono illegali in Germania, si sono visti il sabato sera. Il venerdì in realtà è stato normalissimo, insomma, sono state delle cariche, l'utilizzo di idranti, ma non una violenza superiore al normale, ok, ho capito. Sì, beh, poi insomma immaginiamoci anche che rispetto a quanto siamo abituati in Italia, in Francia, in Grecia, diciamo che il numero di ferite è stato anche molto contenuto rispetto a quello che potrebbe essere nei nostri paesi. Quindi sabato sera invece c'è stato molto più caccia all'uomo, alla donna. Poi vabbè, per magari parliamo dopo, quando parliamo del sabato. Vabbè, arriviamo a sabato, dai, forza. Sì. Allora, il sabato c'era questa manifestazione. Riguardo ai numeri, parliamo del venerdì, eravamo arrivati intorno alle 30-40 mila persone in piazza, possiamo dire. Il sabato è arrivata più gente, quindi si è alzato il numero dei partecipanti in piazza, e la manifestazione Grenzenlos, quindi senza confini, quindi a tema internazionale, migrazione e anche soprattutto sostegno a Rojava, che era in testa al corteo, questa manifestazione è arrivata a una partecipazione di 76 mila persone, che è un numero altissimo per Amburgo, calcolato che è la manifestazione più grande degli ultimi 30 anni, è stata definita dagli organizzatori, quindi molto interessante. Secondo me anche simbolicamente la gestione dell'ordine dei blocchi è stata interessante, perché appunto in testa più o meno c'era il blocco di Rojava, e dietro c'era la sezione anticapitalista. Nell'anti-summit anche quello dell'ONG Rojava ha preso molto parola, appunto visti i partecipanti del summit G20, quali Arabia Saudita, è anche arrivato il presidente turco, eccetera. Si è dato molto spazio quindi ai rappresentanti di Rojava, e in piazza lo si è visto perché erano in testa al corteo. Il fatto che dietro ci fosse la situazione anticapitalista è un altro dato interessante, perché comunque è uno delle aree, dei blocchi che in Europa sostiene di più la lotta di Rojava. E la manifestazione è andata tranquillamente, poi ovviamente c'erano anche altre componenti di piazza, si è vista anche la di Link, insomma si sono viste varie componenti, ecco, non c'erano solo queste due spezzoni. La manifestazione è durata tantissimo, non ricordo la ora finita, comunque è durata moltissimo, e una volta arrivata la testa ancora la coda doveva partire, questo per dirvi che insomma era bella lunga. La polizia aveva ovviamente blindato per tutta la manifestazione da un lato e dall'altro solo esclusivamente il blocco anticapitalista, in cui comunque non c'era nessuna voce coperta, nulla, una manifestazione di piazza, un corteo normalissimo. Durante il corteo non c'è stato nessun problema, e quando si è arrivata alla piazza di fronte allo stadio dove c'era questo grosso concerto in programma, c'è stato a un certo punto, più o meno dopo un'ora mi sembra di ricordare, sono iniziati le cariche con gli idranti, e da lì la situazione è fuggita di mano, perché da tempo un'ora dall'inizio delle cariche di idranti si è iniziato a capire che la polizia fermava gli internazionali, specialmente italiani, francesi, svizzeri e scandinavi. Io ho sentito oggi un giornale ufficiale, e immagino principalmente perché allora avevano bisogno di nomi, facce, foto e tutto quanto prima che la gente tornasse a casa, perché avevano anche bisogno di riempire il loro ghesa, no? Che erano questo carcere, questo centro di detenzione fatto di container terribile, una specie di magazzino, e avevano quindi bisogno di fare almeno 300 arresti, che poi quelli che hanno fatto. Di questi fermi poi hanno per fortuna confermato più o meno una sessantina, non tutti i 300, però ecco, la caccia all'uomo e alla donna che hanno fatto in quel momento era sicuramente, soprattutto agli internazionali, era secondo me dedicata a quello, ad avere più arresti, più fermi possibile, perché comunque questi, la spesa di questo ghesa e di questa repressione la dovevano in qualche modo giustificare. Beh, anche perché erano stati tenuti in scacco per tre giorni, e a questo punto un risultato in termini di fermi, di arresti, dovevano portarlo a casa, altrimenti sarebbe stato uno smacco troppo grande per la polizia, per il Ministero dell'Interno, per lo stesso governo Merkel. Sì, assolutamente, anche perché tu immagina che già la polizia a livello di opinione pubblica è partita malissimo prima di questo G20, perché li hanno sgamato, non ricordo se la polizia di Berlino o di Amburgo, adesso questa cosa mi sfugge, questo dettaglio mi sfugge, hanno adottato un giro di festini con droga e prostituzione, e quindi diciamo che questa cosa è girata per tutti i giornali, e questa è la settimana prima del G20, quindi già a livello di opinione pubblica erano partiti malissimo, quantomeno avrebbero dovuto fare gli arresti possibile la settimana dopo, perché no, avrebbero perso la faccia. Quindi adesso scusami, vai pure avanti. Il sabato inoltre era stata chiamata anche mi sa 3.000 poliziotti berlinesi, dall'Austria anche, mi dicono qua a fianco, e forze speciali, come dicevamo, e i costeri non hanno mai smesso, vabbè, non hanno mai smesso per 2 o 3 giorni, ma il sabato ce n'erano, io ne ho contate una decina. Intorno allo stadio sono anche quasi atterrati e ci intimavano di restare dentro, cioè sembrava di stare in Palestina, una cosa incredibile. Ovviamente era tutta pressione psicologica, infatti comunque devo dire che ci sono ben riusciti, perché sabato è stato a livello psicologico abbastanza devastante. Io continuo a svegliarmi la mattina sognando di forza. Inoltre, il sabato è successo ai compagni di Radio Onda d'Urto, non so se voi l'avete girato la notizia. Sì, lo sappiamo, anche perché ne ha parlato direttamente Onda d'Urto, che sono stati informati. Certo. E loro poi magari sono riusciti a bloccare tutta la situazione, però ecco, è stato un po'. Ecco, in conclusione, quanta gente è ancora in carcere? Allora, io ti dico le notizie che io ho da ieri, perché stamattina ho cercato altre notizie, ma non, anche il Rotail Fans, il Legal Team non mi ha fatto dire altro. Più o meno ieri erano intorno ai 57 i confermati, ma è un numero che non è proprio certo, come non è un numero esatto, ecco, il Rotail stesso non mi sapeva dire. Di questi dovrebbero essere 6 italiani. Di questi 6 italiani, che io sappia il padre di provenienza, perché non voglio dire nomi, parliamo di un ragazzo siciliano che pare sia l'unico a cui hanno confermato un'accusa, cioè assalto allo Stato, due genovesi, due ragazzi di Feltre. E poi basta, io solo queste informazioni, quindi te ne posso, a livello di provenienza te ne posso dire 5 su 6. Però sono tutte notizie che ancora non sono certe. Più o meno i numeri dovrebbero essere quelli, ma per il resto non. No, d'accordo, era per capire. E quindi tutto, al di là degli italiani, sono 57 persone. Si ha un'idea delle imputazioni? Questo che ancora non è molto chiaro, neanche agli avvocati. L'unico di cui è sicura l'imputazione è questo ragazzo. Che è imputato di assalto allo Stato? Assalto allo Stato, sì. Ma in Germania con le accuse ci danno belle pesanti, basta un biglietto della metro falso e ti becchi truffa allo Stato, insomma. Ma assalto allo Stato corrisponde in qualche modo a qualcuno dei reati italiani in maniera che possiamo capire oppure no? Bah, io immagino devastazione e saccheggio potrebbe essere comparabile. Beh, insomma, una robetta da 8 a 15 dalle nostre parti. Certo, niente di meno. E immagina che comunque il carcere preventivo, quindi in attesa di processo, durante le indagini, eccetera, può essere, per il politico parliamo, può essere da 1 a 3 anni. In Germania. Ho capito. Beh, insomma, hanno allungato questo termine del carcere preventivo giusto 2 mesi prima del. È veramente tanto, da 1 a 3 in attesa di processo. Sì, è simile alla legge che c'era in Italia prima che arrestassero Valpreda, quando la cambiarono per farlo uscire. Quindi stiamo parlando del 1972. Veramente tanti anni fa, eppure dalle nostre parti sicuramente la repressione non si ferma davanti a nulla, quindi è decisamente un termine molto molto pesante. E qua oltretutto non esiste il processo per direttissima, quindi i tempi sono lunghi. Senti, hai ancora qualcosa da aggiungere che ti sembra importante? L'unica cosa che vorrei aggiungere è intanto il ringraziamento a tutte le, diciamo, gli organi indipendenti di informazione che ci hanno seguito, perché la nostra è stata una sfida. Noi non abbiamo usato Facebook, non abbiamo usato Twitter, quella merda lì, ma abbiamo usato solo blog autistici, le nostre mail indipendenti, i contatti con i compagni. Siamo stati cliccati da almeno 4.000 compagni in Grecia, perché noi, il nostro intento era quello di fare informazioni in greco, spagnolo e italiano. In Italia ci avete seguito voi, Radio Onda Rossa, ZIC di Bologna, ora scriveremo degli altri articoli in Umanità Nova. Quindi la cosa che noi vorremmo lanciare e rilanciare è la definizione stessa di mediativismo, cioè il fatto che l'informazione indipendente debba trovare spazi liberi all'interno della rete. A noi non è interessato fare 100.000, 50.000 click nei nostri video, passando via Facebook, lasciando quindi il nostro materiale in mano a quella gentaglia lì. Abbiamo preferito trovare altre vie per rispondere notizie, farci conoscere, e devo dire che il risultato, grazie anche a Radio Blackout, è arrivato. Benissimo, vuoi ricordare a chi ci ascolta l'indirizzo del blog dove può trovare un po' tutte le informazioni? Certo, hkcrash.noblog.org, faccio lo spelling, hkcrash.noblog.org. Poi magari se vuoi te lo mandi in messaggio, così magari lo potete scrivere. Sì, ti ringrazio molto, è ottimo così. Mille grazie e alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao, ciao, ciao.